Partiamo con l'ultima fase dei nostri lavori. Avremo insomma, tre quarti d'ora, penso, insomma, ecco. Poi per la discussione e poche parole conclusive, in modo tale che appunto tutto possa concludersi entro le mezzogiorno e tre quarti. Ecco, ma dobbiamo, credo, non aver nessuna paura di questi tempi stretti, perché invece dobbiamo gustare ancora le ultime due relazioni, in particolare adesso quella di Elena Brambilla, che tutti noi conosciamo, sulle visite pastorali e i laici, disciplina dei costumi e controllo dell'ortodossia. Ecco, nella mia relazione io mi propongo di trattare della giustizia ecclesiastica sui laici nei reati peccati di fede morale per quanto riguarda specificamente il sistema che è già delineato dai manuali di confessione del XV secolo e ripreso dal Concilio di Trento, che collega la giustizia episcopale detta di foro esterno alla confessione sacramentale di foro interno mediante i casi riservati episcopali, questo quindi il mio argomento specifico. Il sistema non solo consente a vescovi e parroci di procedere contro i peccatori ostinati e scandalosi, usando precetti penali, penitenze pubbliche e ammende, ma attribuisce ai vescovi, col canone ottavo di riforma della sessione 24esima del Concilio, la facoltà di commutare le penitenze pubbliche in segrete. Questa facoltà, secondo me, va collegata con gli elenchi di casi riservati episcopali, promulgati negli editti sinodali connessi alle visite, e consente ai vescovi di perseguire un arco di reati peccati gravi, compreso il sospetto d'eresia, anche se occulti, ossia confessati in confessione sacramentale, pur senza violare formalmente il sigillo del segreto. Per questi peccati, infatti, i penitenti non possono essere assolti dai confessori di base, diciamo così, ma devono presentarsi per una soluzione privata o segreta al foro vescovile. Che effettivamente si presentino è assicurato dal capillare controllo dell'obbligo introdotto con le visite, che impongono ai parroci la schedatura delle anime da confessione e non solo da comunione e la denuncia degli inconfessi alle cancellerie vescovili. Su questi elenchi le curie procedono quindi alla scomunica dei renitenti senza legittima causa. Per esempio i decreti sinodali di Bollane offrono una minuziosa descrizione dei formulari e della procedura di questa scomunica. Il sistema è completato dal terzo decreto di riforma della sessione 25, che contro chi non chiede la soluzione della scomunica per più di un anno, ossia si sottrae per più di una quaresima alla confessione pasquale, consente di procedere per sospetto d'eresia. I casi riservati variano da diocesi a diocesi. Nei decreti sinodali di Giberti del 1542, per esempio, sono 41. Un record tra gli elenchi che ho avuto modo di consultare, dai peccati enormi più antichi come simonia, bestialità, clericidio, ratto incendio di guerra, alla restituzione dei cosiddetti male ablata incerta, agli adulteri, aborti e infanticidi, a beneficio e stregoneria, incesto matrimoniale e concubinato, sortilegio e sacrilegio, sino a eresia e scisma. Quelli della curia arcivescovile milanese a metà 600 sono 23. Dall'omicidio volontario all'incendio doloso, dal procurato aborto alla sodomia all'incesto, dalla bestemmia al sortilegio. La media è di 10-20, ma vi sono anche editti d'età tridentina, specie nello Stato Pontificio, nel Viceregno e in Sicilia, che ne prevedono solo 3 o 4. Ne avevo preparato una rassegna per mostrare che a queste variazioni possono corrispondere modi assai diversi di intendere sia la confessione, sia la repressione dell'eresia, sia la stessa riforma tridentina. Ma per interpretare la variazione occorre anzitutto capire il sistema stesso dei casi riservati e non mi è riuscito di farlo una cosa e l'altra con una brevità accettabile. Mi limiterò quindi a presentare l'emergere del nesso tra confessione e casi riservati episcopali secondo i manuali e le somme degli osservanti che i vescovi borromaici raccomandano ai parroci per le confessioni. Per questo occorre partire dal carattere obbligatorio della giustizia episcopale e dalle diverse accezioni e impieghi del suo principale strumento, la scomunica. Il carattere obbligatorio della giustizia ecclesiastica si fonda sul battesimo, che è un atto di stato civile insieme di appartenenza religiosa obbligatoria. Il linguaggio d'antico regime qui può indurre un po' confusione per chi chiama cittadinanza quella che in inglese si chiamerebbe franchise, l'esercizio e il monopolio di diritti politici, mentre gli storici del diritto parlano di personalità giuridica. Ma esiste una sottostante cittadinanza anagrafica che non è definita dal comune ma dalla parrocchia. È il battesimo alla nascita a conferire quei diritti civili elementari, che includono anche i minori e le donne, i servi e i garzoni, ma escludono invece gli ebrei e gli eretici, gli infedeli e gli scomunicati. Sinché il parroco resta, per così dire, anche segretario comunale di Stato civile e il suo battesimo da questa cittadinanza primaria, la legislazione religiosa non è separata ma coestensiva con le leggi secolari. È obbligatoria, positiva e vincolante non solo per il clero ma per tutti i laici in tutti gli stati. Vescovi e parroci in cura d'anime sono magistrati ecclesiastici ordinari, la cui competenza sui laici è complementare a quella dei tribunali secolari, secondo un criterio che non è di separazione, ma di spartizione di competenze, gli atti degli uni essendo legali anche presso gli altri e viceversa. In Italia, a parte il possessorio civile sui beni ecclesiastici e il criminale sul clero secolare, il vescovo è competente in tutte le cause penali e morali disciplinari sui laici che sono dette spirituali, orazione e peccati, connesse a sacramenti e quasi sacramenti. In questo vasto campo, quando si parla di giurisdizione, si indica la competenza ordinaria, che significa appunto obbligatoria, del foro vescovile secondo il principio del giudice naturale, ossia sul fondamento territoriale della residenza dei giustiziabili definite dalle parrocchie in cui è divisa la diocesi. A prescindere dal tipo d'avvio, per accusa di parte, su denuncia pubblica di parroci, anziani o vicini, o anche ex officio contro peccatori pubblici e notori, il processo episcopale classico, detto di foro esterno, ha al suo centro la scomunica che si può definire giudiziaria, detta dai canonisti ab homine per indicare che è promulgata da un singolo giudice ecclesiastico. Essa offre ai tribunali vescovili uno strumento analogo al bando in contumacia dei tribunali laici. Quare, si chiede Angelo Carletti nella Summa Angelica Debet quis excommunicari, respondeo quod solum pro peccato mortali, cui est annexa contumacia. Il peccatore pubblico che, sottoposto ai monitori di rito, rifiuta di emendarsi, si considera contumace e contro di lui si procede quindi a scomunica nominativa, promulgata e affissa alle porte della chiesa cattedrale e annunziata nella sua chiesa parrocchiale alla comunità riunita la domenica per la messa solenne. Si riferisce soltanto a questo tipo di scomunica la distinzione dei canonisti tra minore e maggiore. La minore esclude dalla chiesa come edificio e quindi dai sacramenti nella parrocchiale e può essere tolta dallo stesso parroco che l'ha data. La maggiore, comminata dal vescovo, esclude dalla chiesa come comunità, ossia priva dei diritti civili e giuridici di appartenenza anagrafica alla comunità statale religiosa. È essenziale capire che, malgrado sia definita dai canonisti una pena, la scomunica giudiziaria nominativa è in realtà, come il bando, una citazione a comparire in giudizio che tuttavia contiene in sé confusi elementi di procedura e pena. Per ottenere la comparizione colpisce infatti con una pena ipso facto, automatica, la privazione dei diritti civili e giuridici, un risultato appunto automatico sinché nei sacramenti parrocchiali sono inclusi anche gli effetti civili che oggi competono agli atti comunali. Impossibilitato compiere atti legittimi, contrarre matrimonio, comparire in giudizio, fare atti contratti, e in più bollato di infamia dalla finzione e divulgazione del nome, lo scomunicato deve esserne indotto a presentarsi, a subire il giudizio episcopale, abiurando il peccato per ricevere quindi con l'assoluzione la vera e propria pena. Nel sistema canonico questa si chiama penitenza, perché non è fissata per legge ma ad arbitrio del giudice. Tuttavia ha manifesti caratteri penali proprio nella misura in cui la giustizia del vescovo non è volontaria ma obbligatoria. La tipica pena episcopale è la penitenza pubblica, variante delle pene di infamia o di gogna. Il reo deve presentarsi in chiesa alla messa solenne, nella camicia dei disciplini, scalzo, con un cero in mano, a confessare e abbiurare l'errore. Ma il rito disonorante può combinarsi con molte altre pene ad arbitrio, sia penitenziali, dal pellegrinaggio giudiziario al confino libertà vigilata, per cui si devono presentare al vescovo i certificati dei prelati di destinazione o sorveglianza, sia pecuniarie come ammende di soddisfazione o restituzione di danni a terzi. Ma esiste anche un altro e del tutto diverso tipo di scomunica, non individuale e nominativa, ma generale o universale, che i canonisti chiamano aiure, in quanto è stata inserita nel corpus canonico. Per distinguerla da quella giudiziaria si può chiamarla scomunica legislativa, per chiarire che definisce intere categorie di crimini e peccati, come nei codici penali, ossia crea nuovo diritto penale, detto spirituale. Sono i reati, peccati, definiti e sanzionati da queste scomuniche di legge che nel basso medioevo sono detti mortali. Dalle scomuniche a iure, contenute nelle decretali con la glossa di Giovanni d'Andrea, si può ricavare l'elenco classico, benché anch'esso controverso, dei casi riservati alla giustizia dei vescovi. Il primo è la scomunica maggiore pronunciata dal vescovo, la cui assoluzione deve essere riservata al vescovo stesso. In questi termini si afferma in realtà un principio fondamentale di diritto, il fatto che non si può sottrarre il processo al giudice naturale, che è quello competente per territorio diocesi. Quanto agli altri casi riservati da iure nel corpus canonico, si tratta di peccati delitti capitali o mortali inferiori a scisma ed eresia, bestemmia, sortilegio, usura, incesto. Ma anche in questi casi il vescovo è giudice competente quando si tratta di peccati pubblici, ossia perseguibili per regolare processo di foro esterno, o perché sono stati denunciati da parroci, testimoni sinodali o parti private, o perché sono notori o flagranti e consentono l'avvio ex officio. Nella sua Summa, Antonino da Firenze non parla di due, ma di tre tipi di scomunica: da quella giudiziaria, che può assolvere solo il giudice che l'ha pronunziata, e da quella a iure, distingue gli effetti automatici della maledizione divina, che è facile vedere realizzati nei castighi di Dio alle comunità e ai singoli per i loro peccati, dalle guerre alle epidemie, dalle malattie alle morti improvvise. È di quest'ultimo genere il potere legislativo penale esercitato dal Papa, che si potrebbe quindi definire anatema penale. È opportuno distinguerlo anche dalle scomuniche a iure, perché non solo riguarda la giustizia capitale ed include una condanna a morte magica, ma ingloba l'idea arcaica, derivata dalle antiche maledizioni monastiche e dall'anatema biblico, che la pronuncia sacerdotale abbia il potere di controllare e dirigere il castigo divino. La scomunica vescovile è solo una sospensione dei diritti civili e una dichiarazione di infamia, sino alla purgazione della pubblica penitenza e abiura del peccato. Nell'anatema penale, invece, in cui si esercita la potestas ligandi del Papa, è incorporato qualcosa di più potente e pericoloso. Vi si annulla non solo la distinzione tra legge penale e sentenza di condanna, ossia tra potere legislativo e giudiziario, ma anche tra pena canonica e castigo di Dio, e tra castigo in vita e dopo la morte. La maledizione del rappresentante di Dio in terra non solo definisce e sanziona il peccato, ma amministra un castigo che non traccia confini tra pene umane e divine, del corpo e dell'anima, in vita e nell'aldilà. Il che significa, se vogliamo tentare di limitarci ai confini razionali dell'aldiquà, che confonde definizione del reato e condanna del reo, anche se occulto e senza processo. Essa contiene pertanto il seme di una potenziale confusione tra penitenza di foro esterno o giudiziario e di foro interno sacramentale. Anche dopo la codificazione della glossa, questa confusione permane nel potere che i pontefici rivendicano di decretare scomuniche legislative generali, non solo per definire nuovi reati con le relative sanzioni, ma per delineare il campo in cui i poteri di giustizia penale e di grazia del Papa prevalgono su quelli di qualsiasi magistrato inferiore e ordinario. Ai casi da scomunica già riservati alla soluzione papale nelle decretali, Antonino da Firenze nell'elenco 83, il Papa vivente, grazie al suo illimitato potere delle chiavi, può sempre aggiungerne di nuovi. E quanto avviene negli arcaici riti legislativo-giudiziari attestati sin dall'Alto Medioevo del Giovedì Santo, nel processo concistoriale in Die Cene Domini. Qui il Papa, insieme alle condanne in contumacia contro singoli rei di ribellione e lesa maestà papale, promulga, ripete e può variare ad ogni nuovo pontificato e anche ogni anno i reati peccati passibili di anatema di cui riserva a sé solo la soluzione. Questa, a sua volta, è delegata al Tribunale che amministra la potestas solvendi papale, la penitenzieria apostolica. Essa concede le grazie del Papa sia nei casi che gli sono riservati nelle decretali, sia in quelli definiti nei processi in diecene o in nuove decretali extravaganti, sia per ogni altro caso particolare o peccato enorme per cui conceda la soluzione, vive vocis oraculo, il Papa vivente. Come i reati rei definiti condannati in diecene domini, così i reati peccati che la penitenzieria può assolvere sono mobili e incodificabili. Accumulati nei secoli per concessioni papali, possono da un lato diventare obsoleti, dall'altro essere rinnovati e ampliati di continuo. I reati peccati colpiti da anatema, sommati ai casi graziabili di penitenzieria, costituiscono i casi riservati papali. Essi definiscono il campo della giustizia capitale straordinaria della monarchia romana come monarchia assoluta, che confonde insieme spirituale e temporale. E si può dire che coprono grosso modo tre aree, dalla più recente alle più antiche. In forte espansione nel 400 è l'area dei reati peccati di lesa maestà, in cui si confondono gli atti di guerra, congiura o tentato contro il Papa come sovrano politico e l'eresia, ossia i delitti d'opinione contro la sua sovranità spirituale. Più antica è l'area del sacrilegio, che include simonia, violenze contro cose e persone consacrate, violazioni di voti e giuramenti solenni. Più antica di tutte l'area dell'incesto, specie nel primo e secondo grado. Dopo la sconfitta dei vescovi nel movimento conciliare, il dispiegarsi dei poteri di grazia papali attraverso le facoltà della penitenzieria è in ascesa per tutto il 400. Come gli anatemi, così le grazie di penitenzieria non distinguono tra foro esterno ed interno, confondendo in una sola le due accezioni del termine penitenza, quella canonica o pubblica del tribunale del vescovo e quella privata che segue la confessione. Infatti concedono, su confessione sacramentale, assoluzioni o grazie valide in utroque foro, sia da peccati già perseguiti dalle scomuniche giudiziarie di vescovi e prelati, sia da peccati occulti, anche capitali ed enormi, tutelati dal segreto confessionale, sia infine su suppliche protette dal segreto dell'ufficio. Tra le più comuni grazie di penitenzieria vi sono le lettere confessionali, che danno a chi ne fa supplica la facoltà di eleggere un confessore diverso dal proprio parroco, col potere di assolvere anche dai peccati mortali o da scomunica, purché occulti. Altrettanto comune è il rilascio, su confessione sacramentale o supplica segreta, di lettere di grazia e indulgenza che, presentate al tribunale ordinario, sospendono e annullano i procedimenti di foro esterno dei tribunali vescovili. Le grazie di penitenzieria, d'altra parte, non prevedono solo costi di bollo e scrittura, ne è parte assai più sostanziale ma non quantificabile, perché contrattata ad arbitrio in segreto con i penitenzieri confessori delle basiliche romane e con l'ufficio, la commutazione delle penitenze giudiziarie in ammende in denaro, da versare direttamente alla Camera Apostolica. Il potere papale delle chiavi non è esercitato solo a Roma. Nel corso del 400 è delegato in misura sempre più ampia ai regolari come sacerdoti privilegiati, predicatori confessori professionali degli ordini mendicanti, con studi in teologia e diritto canonico, assumono il ruolo, potremmo dire, di giudici mobili di penitenzieria. Itineranti ed aterritoriali sono autorizzati ad esercitare la potestas ligandi et solvendi papali con facoltà di valicare ogni confine di diocesi e parrocchia, senza rispettare il principio del giudice competente che costituisce il cardine della giustizia territoriale dei vescovi e dei parroci. E trasferiscono anche qui la contaminazione tra foro esterno ed interno, col potere di concedere su confessione sacramentale assoluzioni valide anche per prevenire o sanare procedimenti e scomuniche giudiziarie. Questo si può verificare in moltissimi modi, quando il peccato occulto, se il confessore è autorizzato a rilasciare l'estera da assoluzione e indulgenza da casi definite dalle scomuniche a iure, in forma generale e collettiva, coi privilegi concessi dalla Curia Romana alle confraternite insediate nelle chiese santuarie degli ordini mendicanti, nelle deleghe della potestas solvendi del Papa agli stessi ordini per predicare la crociata, nelle amnistie generali degli anni giubilari. Tutto ciò è certo ben noto, ma va meglio considerato nelle sue implicazioni giudiziarie, in quanto sostituisce la penitenza canonica, pubblica e obbligatoria, la penitenza privata su confessione sacramentale volontaria. Nasce di qui, ad esempio, la facoltà di commutare, sempre su confessione, la satisfazio giudiziaria, che sarebbe imposta dai vescovi nel foro esterno come restituzione di danni a terzi, in legati pii per finanziare opere meritorie, sia di fabbriche che di crociate. Questo vale per i delitti d'usura, falso in contratto, e per ogni turpe lucro contro il giusto prezzo, in tutti i casi in cui si può parlare appunto di male ablata, occulta o incerta, ossia quando i profitti illeciti non si possono restituire ai danneggiati, o perché ignoti e non più rintracciabili, o perché il peccato occulto e la restituzione pubblica danneggerebbe la buona fama, che è anche il credito di fiducia su cui opera ogni mercante e banchiere. Ma la pratica delle commutazioni non si limita ai peccati e delitti d'usura, si estende dai reati e peccati enormi, capitali o mortali, definiti dalla scomunica iure, ai casi riservati papali, ampliandosi nel corso del 400 fino ad eccettuare solo, alla fine, la commutazione dei grandi voti di pellegrinaggio a Santiago e Gerusalemme. Chi ottiene una lettera di indulgenza, il certificato rilasciato da uno di questi confessori privilegiati, ottiene un'amnistia o indulto che confonde, come accuseranno i protestanti, la colpa e la pena. Da un lato, il certificato vale per il foro esterno, ossia si può esibire in giudizio per dichiararsi assolti da scomuniche già comminate e non attemperate nei tribunali vescovili o anche da procedimenti futuri del giudice episcopale per lo stesso peccato. Dall'altro, vale come assoluzione dalla colpa, ossia nel foro interno, per i reati e peccati occulti classificati come mortali dalle scomuniche legislative e dagli stessi decreti sinodali. Per fare un solo esempio tra gli innumerevoli, un'indulgenza concessa a Ginevra e Savoia nel 1504 da Giulio II conferisce ai frati su confessione sacramentale offerta, ossia commutazione della penitenza pubblica in elemosina per un'opera pia, la facoltà di assolvere simoniaci, fornicatori con consanguini affini, chi si fa sostituire per ricevere gli ordini sacri, chi fa violenza a preti e religiosi, preti concubinari, colpevoli di sacrilegi, incendi e furti sacri, falsari, scomunicati, sospesi a divinis che hanno celebrato e ricevuto gli ordini di nascosto, apostati, incestuosi, spergiuri, saccheggiatori, infami, eretici, adulteri, è finito. Bollette di confessione e certificati di indulgenza offrono un vero e proprio sistema di condoni per assicurare un gettito straordinario alla finanza papale e spirituale, ma offendono sin dal loro primo comparire il comune senso della giustizia, come avviene ancora oggi per ogni condono fiscale una tantum, e minano l'autorità dei magistrati ecclesiastici ordinari molto prima che intervenga ad offendere i maestri in teologia della Sorbona o il monaco Lutero. L'estensione dei poteri di assoluzione papale non solo dalle pene canoniche alle colpe occulte, ma anche dalle pene temporali in questa vita a quelle temporanee in purgatorio dopo la morte. Il risultato dunque è di compromettere non solo la competenza ordinaria dei vescovi, ma anche dei loro giudici spirituali di prima istanza, i parroci, sia nelle confessioni in punto di morte, sia nell'adempimento dell'obbligo pasquale. Con le lettere di confessione e indulgenza, i penitenti ottengono infatti di sottrarsi facilmente all'obbligo di confessarsi ogni quaresima al proprio sacerdote, fatto dal celebre canone Omnis del 1215, presentando in suo luogo l'attestato di confessione a un sacerdote privilegiato, un frate, e ottemperando all'obbligo per la sola comunione. Entro l'onda, che moltiplica nei regolari poteri papali di grazia, si può tuttavia individuare un conflitto e un'alternanza. Da un lato si ha la linea più ampiamente indulgenziale dei rami conventuali, che culmina coi noti privilegi concessi con la Mare Magnum dal francescano conventuale Sisto IV al suo ordine, estesi dal successore Innocenzo VIII anche ai domenicani. Dall'altro, i rami osservanti trovano un compromesso coi poteri dei vescovi, che mi sembra elaborato per la prima volta nella Summa e nel Manuale di Confessione di Sant'Antonino, ed è poi ripreso soprattutto dalle province osservanti francescane e domenicane di Toscana e Lombardia. Il nuovo sistema si fonda su due elementi. Da un lato, i predicatori confessori con facoltà di assoluzione straordinarie, estese anche ai gravi ora crimina, dovranno essere più rispettosi dell'autorità dei vescovi, chiedendone la licenza per esercitarle nella loro diocesi. Dall'altro, i vescovi faranno bene ad escludere pievani e curati, confessori ordinari sì, ma non abbastanza istruiti, dal potere di assolvere in confessione sacramentale da una serie di reati e peccati mortali o da scomunica che i vescovi stessi possono definire e ampliare. In apparenza essi non fanno così che proseguire la consuetudine di promulgare le scomuniche a iure, definendo per legge sinodale i casi riservati al loro foro, ma in realtà estendono la loro competenza anche al foro interno, ai peccati occulti confessati in confessione sacramentale. Limitano infatti le facoltà di assoluzione di pievani e parroci per riservarla a un'istanza superiore più dotta, come sono appunto i predicatori e i confessori regolari che ricevono la loro licenza. Nascono e si espandono in questo modo, in aggiunta ai casi riservati papali, gli elenchi variabili in ogni diocesi dei casi riservati episcopali, in un'accezione nuova e ben più ampia dei casi a iure del diritto classico. Il nuovo sistema, infatti, è esteso alle confessioni degli occulti, introducendo anche qui, con la collaborazione tra vescovi e frati osservanti, la contaminazione tra confessione sacramentale e pene penitenze giudiziarie. Nei reati morali e religiosi, su cui ha competenza derivata da sacramenti e giuramenti, dall'aborto al concubinato, dall'usura all'adulterio, il Vescovo acquista così un nuovo e penetrante strumento di controllo, che non si ferma più agli atti e comportamenti manifesti dei peccatori pubblici e notori, contro i quali può ed anzi deve, secondo i manuali e le summe degli osservanti, procedere nel foro esterno con la scomunica e penitenza pubblica, ma può agire anche contro reati e peccati occulti o segreti, che non emergeranno mai nel foro giudiziario, ma che vengono trasferiti dal foro interno della confessione sacramentale in un'area di penombre segreto a metà tra l'uno e l'altro, quello che i canonisti chiamano forum poli, in contrapposizione al contenzioso forum fori, e che potrà chiamarsi in seguito foro della coscienza. La regola che vale è che al peccato pubblico, scandaloso o notorio deve corrispondere la scomunica e penitenza pubblica, a peccato occulto confessato in segreto, in tutti i casi capitali o mortali soggetti a scomunica, si può far corrispondere la commutazione o grazia della penitenza pubblica e dell'ammenda di restituzione in penitenza privata o segreta, su abiura del peccato, anch'essa privata o segreta. Il rapporto che si stabilisce così nel foro vescovile tra soluzioni dalle scomuniche e dai mortali occulti crea questioni quasi insolubili, che non si presentano quando i frati vaganti agiscono, per così dire, come battitori liberi, senza curarsi di confini diocesani né di magistrati vescovili. La maggiore difficoltà riguarda i modi di conciliare il segreto confessionale con l'invio dei penitenti, del confessore di base al palazzo del Vescovo o a un confessore penitenziere con facoltà e dottrina superiore. Il nuovo sistema divide di fatto la confessione in due parti, sicché si discute all'infinito se deve essere integro o divisibile, quale parte sacramentale e quale no, che cosa distingue il segreto confessionale dal segreto del foro interno vescovile. La soluzione prevalente sembra quella proposta dalla Summula Cajetani. Il parroco, prima di iniziare la confessione, deve interrogare il penitente sugli impedimenti, se è estero, non residente nella parrocchia, su cui quindi non è giudice competente, se è scomunicato di maggiore, se ha occulti riservati come concubinato o usura. In caso affermativo deve sospendere la confessione, inviando il penitente a procurarsi la lettera d'assoluzione da chi ne ha la facoltà, per non fargli confessare anche i peccati, rifiutando poi di assolverlo. Cito da Caetano: «Et hoc ut non possit poste a penitens conqueri, dicendo, quod voluiste audire scire facta mea, et non vis me absolvere?» Ma se si guarda gli interrogatori sui peccati, è facile constatare che nei manuali osservanti i quesiti suggeriti al confessore vertono in non piccola parte su peccati mortali contro Dio e il prossimo, che sono anche reati contro la fede o condanni a terzi, dai sospetti di eresia e apostasia a magia e stregoneria, dall'omicidio al furto, dalla bestemmia all'usura, dall'adulterio all'incesto. Non solo nell'interrogatorio preliminare, insomma, ma anche nella confessione vera e propria, sono inclusi peccati mortali che, se pubblici e notori, sarebbero da perseguire con la scomunica nel foro esterno vescovile. Protetti dal segreto confessionale, devono ora indurre il confessore rigorista, che non può imporre la penitenza pubblica, essendo il peccato occulto e sotto sigillo sacramentale, a sospendere comunque la soluzione e rinviare il penitente al vescovo. Il segreto confessionale è salvo perché non è il confessore, ma il penitente a essere inviato all'istanza superiore, e il foro vescovile provvede a una soluzione penitenza anch'essa privata o segreta. Ma la distinzione tra foro interno ed esterno, confessione sacramentale e giudiziaria, diventa davvero molto sottile. In pratica si sospende la soluzione obbligando il penitente a presentarsi se vuole evitare lo scandalo di non essere ammesso con tutti gli altri alla comunione obbligatoria pasquale. La Summa Latina di Sant'Antonino segue ancora modelli del XIII secolo, trattando insieme in un'opera scolastica per maestri in teologia e diritto canonico sia la materia delle scomuniche e dei processi, sia delle confessioni sacramentali. La vera novità è che quest'ultima viene stralciata per essere stampata e volgarizzata in libretti economici per i parroci. Nei manuali così costruiti, la prima istruzione al parroco riguarda i peccati che non deve assolvere, gli impedimenti alla confessione che deve imparare a memoria, dalle scomuniche a iure tratte dalla glossa, ai casi riservati papali della bolla in cena domini, fino ai nuovi casi riservati episcopali. Occorre infine sottolineare che, a mio avviso, questa prassi di casi riservati episcopali, frutto di compromesso tra poteri vescovili e papali è un fenomeno essenzialmente italiano. In Francia e in Germania la contaminazione tra giustizia vescovile di foro esterno ed interno solleva opposizioni altrettanto violente quanto la lesione della giustizia ordinaria dei vescovi e dei parroci mediante i poteri straordinari dei frati, distributori di certificati di confessione e lettere di indulgenza. Ho sottolineato all'inizio che nel definire ordinaria la giustizia vescovile si deve intendere che è obbligatoria secondo il principio del giudice naturale, competente su tutti i battezzati residenti nelle parrocchie in cui è divisa la diocesi. La differenza con la giustizia spirituale dei regolari, allora, si può ricondurre a quella tra giustizia obbligatoria e volontaria, o più latamente, penale e premiale. La prima si fonda sull'obbligatorietà della pena, la seconda sul perdono del reo. Il principio dei mendicanti è che chi si presenta spontaneamente a confessare, dando con ciò stesso prova di pentimento, può ottenere la grazia di aver commutata la penitenza pubblica in una penitenza a biura segreta e la soddisfazione o restituzione di danni in ammenda e elemosina. Incoraggiando la confessione volontaria con la promessa di perdono ai pentiti, i mendicanti si valgono di uno strumento di giustizia eccezionale per perseguire reati per cui mancano le capacità di arresto e i mezzi di prova. Uno strumento che, come tante altre varianti del genere, trova spazio quando appare insufficiente la giustizia ordinaria per individuare l'autore del reato e portarlo in giudizio. La materia prevalente su cui si dirige la giustizia mendicante nel secondo Quattrocento sono reati di natura morale o penale, cosiddetti di disciplina. Per perdonarli in utroque fuoro, nella variante indulgenziale, per punirli anche nel fuoro interno, nella tendenza osservante. Ma i regolari sono esperti anche, ed anzi forse soprattutto, nei delitti d'opinione e di fede. E per la repressione di questi reati per eccellenza occulti o mentali hanno combinato sin dall'inizio confessione sacramentale e giudiziaria. L'opera del frate inquisitore inizia infatti, come è noto, con la promulgazione dell'editto di fede, e cioè con un editto di grazia, nel quale non agisce come giudice ma come predicatore di penitenza, promettendo l'assoluzione a chi faccia confessione e volontaria abiura del crimine d'eresia. L'editto di grazia è un monitorio generale di scomunica che pone agli eretici un termine perentorio a comparire. Se entro la scadenza si presentano spontaneamente a confessare, possono usufruire della grazia del giudice, ma la confessione abiura segreta è considerata piena e sincera solo se il penitente denuncia i complici nell'errore. Scaduto il termine, il confessore inquisitore dispone dunque delle denunce segrete, sia su confessione volontaria di eretici sponte comparenti, sia di locali autorità ecclesiastiche o delatori privati, per procedere all'inquisizione nominativo speciale contro i sospetti. Questi, non essendosi presentati spontaneamente nel tempo di grazia, sono perciò stesso considerati ostinati o ribelli, e contro di loro si può quindi procedere nel tempo di giustizia, secondo le norme del codice penale giustinianeo. Alla fase missionaria, crociata indulgenziale del secondo Quattrocento, succede la rinnovata minaccia dell'eresia che riporta la Chiesa in fase difensiva. La risposta tridentina segna una ripresa dei poteri dei vescovi e della loro giustizia obbligatoria in reazione agli eccessi della giustizia volontaria e privata dei frati confessori e questuanti. Con la centralità del clero secolare e della parrocchia si ristabilisce anche l'obbligo della confessione pasquale al parroco, mettendo al bando confessori privilegiati e lettere di penitenzieria. Ma non si tratta di un mero ritorno all'antico. In Italia anche i tribunali vescovili hanno ormai assimilato i metodi dei regolari. La confessione al parroco, secondo le Summe e i manuali osservanti, gli impone di rinviare i peccatori gravi a un'istanza superiore per la soluzione. E la prassi che consente alla curia vescovile di concedere abiure segrete nei peccati occulti, mortali o enormi, di cui si riserva la soluzione, si può facilmente allargare dai reati morali e sessuali o di disciplina a quelli di fede ed eresia. Basta conferire anche ai vescovi i poteri papali già delegati negli editti di grazia agli inquisitori mendicanti. La facoltà di concedere su sospesa soluzione in confessione sacramentale la grazia di un'abiura privata dal crimine d'eresia, se il penitente dimostra il pentimento presentandosi spontaneamente al giudice vescovile o all'inquisitore e completando la confessione con la denuncia dei complici. La normativa episcopale tridentina introduce qui un'innovazione cruciale, perché iscrive il sistema premiale volontario della tradizione mendicante entro il quadro della giustizia episcopale obbligatoria. L'obbligo non solo della comunione, ma anche della confessione pasquale al parroco è completato da un lato con la sua istruzione sui casi riservati episcopali e papali, dall'altro con la schedatura nominativa degli inconfessi. Per costringere i penitenti a confessare, tra virgolette, volontariamente reati e complici d'eresia, basta combinare la scomunica pubblica che i vescovi promulgano contro gli inconfessi, di cui ricevono le liste dei parroci, ad esempio ho già detto, la procedura è già chiara nei decreti sinodali di Giberti, ma è portata a perfezione burocratica in quelli di Bollani. Basta dunque combinare la scomunica pubblica con le norme tridentine già accennate all'inizio. L'una che consente di procedere per sospetto d'eresia contro chi è scomunicato da più di un anno. L'altra che attribuisce ai vescovi la facoltà di commutare le penitenze pubbliche in segrete. Si accoglie così il sistema osservante dei casi riservati episcopali, estesi non solo al foro interno e agli occulti morali penali, ma anche agli occulti d'eresia. Il sistema, usato sempre più ampiamente in collaborazione tra vescovi e inquisitori dagli anni 50, ha quasi certamente come fondamento il cruciale indulto generale concesso da Giulio III nell'aprile 1550. Per incoraggiare le autodenunce dell'azione dei reati di fede, si promette la grazia di una biura segreta a chi si presenti a confessare e denunciare i complici, collegandola da un lato all'obbligo generale di denuncia di eretici, sospetti e detentori di libri proibiti e dall'altro all'obbligo di confessione pasquale. Un sommario spoglio di Costituzione e decreti sinodali, tuttavia, mostra che entro questo sistema, che ritengo unico e peculiare all'Italia, del tutto assente dai paesi rimasti cattolici oltre Alpe, diverso anche dal sistema spagnolo, esistono alternative che si riflettono nell'espansione o contrazione dei casi riservati episcopali. Nuovi manuali gesuiti come quello di Navarro e costituzioni sinodali di vescovi di Sicilia, dello Stato Pontificio e del Viceregno mostrano come, fermo restando il controllo dell'obbligo di confessione pasquale per assicurare comparizioni spontanee e denunce di complici, quanto più si ampliano i delitti di competenza del Sant'Uffizio, tanto più possono ridursi i casi riservati episcopali. Il manuale spagnolo di Navarro, mentre teorizza che non esiste segreto confessionale nei delitti contro lo Stato e la Chiesa di tradimento politico ed eresia, è la tradizione del Sant'Uffizio spagnolo, distacca per il resto la confessione dalle scomuniche episcopali e dai casi riservati, presentandola già in una forma più moderna. Nei reati morali e sessuali, alle penitenze pubbliche segrete dei vescovi di stile borromaico, può subentrare allora un ritorno all'indulgenza pretridentina, in nome della necessità di evitare scandali e tutelare la buona fama delle persone d'onore. Un grazie particolare alla professoressa Bambilla. Posso solo dire che appunto la sua relazione mi ha toccato in modo quasi personale, perché da qualche anno tentiamo di navigare in questo terreno tra il foro interno e il foro esterno, tra il diritto penale della Chiesa, come si suol dire in termini tecnico, e invece il sacramento, insomma, questi sono veramente grossi problemi in cui si misura la riforma tridentina e che si intrecciano appunto con questa territorialità della visita, insomma. Quindi non è una cosa staccata dal quadro che abbiamo tentato di ricomporre in questi giorni, insomma, perché è sul territorio, insomma, che questo controllo, insomma, da diversi piani si attua, ed è molto importante appunto il chiarimento su diversi piani che noi oggi vediamo molto spesso incrociati fra di loro in modo confuso. Quindi grazie.